colo bate. Ramon tu no con cole pesan gama. Ta colo bate. Mwende di zita bana mi ke bayo kate. Shut up, colo bate. Ramon tu no con cole pesan gama. Ta colo bate. Mwende di zita bana mi ke bayo kate. Buju buju buju. Madame Magali.